America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, dallo Scabos al G20, al seguito del presidente Obama, Mario Platero. Avrete già ascoltato la notizia di un vertice cancellato, quello tra Europa e Stati Uniti, a sorpresa nella notte di ieri qui allo Scabos. Vorrei farvi ascoltare delle dichiarazioni di ieri mattina del Presidente del Consiglio Mario Monti, secondo me premonitrici. Noi europei siamo ben consapevoli delle interdipendenze, non abbiamo problemi a parlare anche di problemi europei in un quadro più ampio come il G20, ma sentiamo il dovere, il diritto e la responsabilità di risolvere i problemi europei negli organi europei. Sono dichiarazioni che in qualche modo esprimono un'Europa preoccupata. C'è stato ieri un incontro fra Merkel e Obama, non è andato bene, il presidente americano ha esercitato forti pressioni. Alla fine l'Europa ha fatto quadrato attorno alla Merkel. Questo Monti lo anticipa con chiarezza e mette le mani avanti. Quanta ingerenza americana c'è nella formulazione del futuro dell'Unione? Beh, di certo è questa la posta in gioco. L'America non vuole solo il rilancio della crescita, vuole partecipare al processo di formazione di un'Unione europea più forte sul piano bancario, fiscale, politico. Obama pensa al breve, alle sue elezioni, ma ha in mente un processo con margini di manovra, di autonomia federalista all'americana. Teme forse il rischio di un modello europeo rigido, austero, rigoroso, ma anche solido, come vorrebbe la Germania. Ecco, io credo che questo G20, o meglio quel che capita ai margini di questo G20, non può essere capito fino in fondo se non si dà questo contesto al dibattito transatlantico. Per Obama dunque due problemi: a breve alimentare la crescita per salvare la sua presidenza, a lungo termine salvaguardare l'influenza del modello americano nella formazione di un modello europeo di sviluppo. Con il vertice mancato di ieri, Obama ha però subito un danno di leadership non da poco, e non c'è dubbio che Romney ne approfitterà. Abbiamo anche discusso affari internazionali, including the Syrian affair. We discussed Syria, where we agreed that we need to. L'altro grande tema di ieri ai margini del G20 è stato il vertice. Barack Obama e Vladimir Putin non si erano mai incontrati da presidenti, e sappiamo che fra loro c'è un po' di tensione. Putin ha detto: abbiamo anche discusso questioni internazionali come la Siria, sono dell'idea che possiamo trovare dei punti di convergenza su molte di queste questioni. Obama: abbiamo concordato sul fatto che bisogna arrivare a una fine delle violenze in Siria, che deve essere messo in piedi un processo politico che prevenga la guerra civile, e a questo scopo lavoreremo con tutti i paesi interessati nel contesto delle Nazioni Unite. La vera partita era la partita siriana, e l'apparenza e la sostanza, ci ha detto Ben Rhodes, il numero due del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ieri, possono essere molto diverse. Ce l'ha detto spiegando questo vertice. L'apparenza, beh, durante il vertice Putin era quasi sdraiato sulla sua poltrona, distratto, emanava, ma direi, menefreghismo da quasi ogni poro. Obama, mascella tesa, guardava soltanto il traduttore, insomma body language direi zero. E dunque Rhodes dice: nella natura di Putin essere così, i due si conoscono poco, possibile e forse vero, l'apparenza magari inganna, ma la sostanza si è ridotta alla fine a un messaggio monocorde di Barack Obama a Putin, e cioè Bashar Assad, il leader siriano, se ne deve andare. Occorre avviare un nuovo processo politico, occorre passare alla democrazia. In realtà io non credo che Putin possa accettare. La Siria è una pedina molto importante per lo scacchiere geopolitico di Mosca, per lo scacchiere geopolitico medio orientale. Se i movimenti per ora sono stati minimi, credo che comunque i chiarimenti siano stati importanti. Ho con me ai microfoni di America 24, anche lui al seguito del presidente Barack Obama, Maurizio Molinari, compagno di innumerevoli viaggi. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Che impressione hai avuto tra apparenza e sostanza, come hai sentito, ne ho parlato prima? Linguaggio del corpo fra Putin e Obama molto freddo, contenuti superficiali, Obama ha proposto un patto politico sulla transizione a Putin. Putin, da buon russo, ha ascoltato senza rispondere e fra poco vedremo la sua zampata. Andrà in Medio Oriente in visita senza precedenti per un presidente russo, Israele, Giordania e territori palestinesi. Putin, anziché accettare il piano di Obama, ha in mente un suo piano e presto credo che lo vedremo all'opera. Ecco, che probabilità dai alla idea americana di sostituire Assad con un suo numero due, di garantire la Russia sulle sue basi, insomma di applicare la cosiddetta soluzione yemenita? Secondo te ha probabilità di avere successo o no? Non c'è dubbio che questo è l'unico piano che può avere successo, perché i russi sono molto pragmatici, tengono ai loro interessi, vogliono il porto di Tartus, che è l'ultimo porto amico che gli è rimasto nel Mediterraneo, vogliono conservare le basi di ascolto dell'intelligence in Siria, e quindi se i nuovi potenti a Damasco glieli garantiranno, per loro va benissimo. Il vero motivo per il quale la Siria vuole partecipare alla transizione politica a Damasco e per conservare la sua sfera di influenza. Il vero interrogativo però è se Putin vuole fare tutto questo da solo o con Obama. Ecco, cambiamo argomento, economia, e io ho fatto sentire una dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Monti che dice: ma insomma, in fondo non è soltanto colpa dell'Europa, diciamolo, è anche colpa dell'America. Vero o falso? Io credo che in questo momento in Europa ci sia molto nervosismo, perché l'amministrazione Obama sta tentando di dettare l'agenda dell'integrazione europea. Vogliono che al vertice del 28-29 giugno l'Unione Europea vari l'unione fiscale. Per i veterani di Bruxelles come Monti, obiettivamente accettare queste condizioni dagli americani è un po' difficile. Qual è l'impatto di questa situazione sulle elezioni americane? Quanto tempo ha Obama per risolvere con successo queste situazioni? A poco tempo. L'interrogativo è se i tempi stretti di Obama coincidono con gli interessi dell'Unione Europea. Ciò che mi ha colpito è come nell'incontro di 45 minuti fra Obama e Merkel si è parlato anche della risposta da dare alla richiesta greca di dilazionare tagli e aiuti. Cioè, insomma, Obama sta entrando con tutte le scarpe dentro le vicende interne dell'Eurozona. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho detto che vi avrei proposto delle canzoni latinoamericane, messicane, e ce n'è una che mi sta molto a cuore. Harry Belafonte, grande interprete di origine giamaicana, ma direi interprete ormai americano, ha affermato: cucurucucu, paloma. Dicen que por las noches Tomás se la iba en poro llorar. Dicen que no comía Tomás se la iba en poro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que está en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dallo Scavos è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!